Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nei Balcani con Paolo Rumiz. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. L'incontro di oggi è un incontro da molto atteso per me. Sono anni che seguo i racconti di viaggio di questo scrittore dalle pagine di Repubblica, non ultimo quello dell'estate scorsa, sulle orme degli eroi del Risorgimento in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Ma non è l'Italia che mi interessa scoprire attraverso le sue parole, quanto piuttosto un altro luogo a lui particolarmente caro e vicino, i Balcani. Abbiamo appuntamento alla casa editrice Feltrinelli di Via Aldegari a Milano. Lui è arrivato da Trieste, perché è là che vive. Compilo un registro, salgo le scale per andare al primo piano e una volta dentro gli uffici dico di essere lì per l'intervista. Mi accompagnano attraverso un dedalo di corridoi fino alla stanza dove mi aspetta il mio nuovo compagno di viaggio, Paolo Rumiz. Stretta di mano rassicurante, non avevo dubbi che l'avrebbe avuta così. Ci accomodiamo a un tavolo e senza troppi preamboli si parte. Destinazione Sarajevo. Nome Sarajevo, stato Bosnia-Erzegovina, superficie 141 km quadrati, abitanti 752.000. Clima: Sarajevo presenta un clima continentale mite, posta tra due fasce climatiche, quella dell'Europa centrale a nord e quella mediterranea a sud. Religione: Sarajevo è da sempre città multietnica e multireligiosa. Al suo interno convivono tre diverse religioni: l'Islam, il cristianesimo, con due derivazioni, e l'ebraismo. Il grande clima di tolleranza e rispetto tra queste confessioni ha portato a soprannominare Sarajevo la Gerusalemme d'Europa. Ma io sono sempre meravigliato del fatto che, pur avendo conosciuto Sarajevo soltanto in guerra, anzi, ci sono arrivato come un orologio il primo giorno di guerra. Nonostante questo, io ho un ricordo incantevole della città. La cosa più straordinaria era la sua testarda urbanità. E cioè il fatto che, nonostante i bombardamenti, i teatri fossero aperti, i caffè funzionassero e subito dopo essere bombardati venivano rimessi a posto, persino i concorsi delle Miss andavano avanti durante la guerra. Ecco, io di fronte a questo attaccamento della città, ai propri riti, al fatto di mettersi la cravatta al mattino, perché si batte il nemico con l'autostima, con il rispetto, con il trucco sulle labbra. Questo è fantastico, cioè questa guerra di resistenza al male portata avanti sul piano della ritualità, dell'estetica, della lentezza del caffè da sorbire. Io ricordo che quando mi chiedevano, io chiedevo loro, ditemi che cosa vi posso portare, no? Arrivavo con gli aerei delle Nazioni Unite, quindi avevo la possibilità di portare per loro alcune cose. Mai che mi avessero chiesto qualcosa di pratico da mangiare, una donna mi disse portami delle scarpette da ballo, un uomo volle dei sigari. Non volevano ciò che serve a sopravvivere, ma ciò che serve a dare dignità alla vita. Ecco, questa è la grande lezione che ho avuto nell'epicentro dell'autodistruzione dell'Europa. Non è fantastico questo? Cioè che il mondo sveli di sé il meglio delle situazioni peggiori. È abbastanza triste tutto questo, perché io vedo che anche oggi la gente di là, pur avendo maledetto la guerra in ogni momento, conserva il ricordo meraviglioso della fratellanza che quel mondo ha saputo esprimere in quei 3 anni e 7 mesi di pena. Oh, Sono bastate queste poche parole su Sarajevo e la dignità dei suoi abitanti che il nostro viaggio si preannuncia pieno di sorprese. Il libro nel quale c'è condensata la passione di Rumiz per questi luoghi è La cotogna di Istanbul, che mi dice essere stato quasi una catarsi per lui. Sì, nell'ultimo libro che ho scritto, che ho dedicato ai Balcani proprio perché in quegli anni di guerra ho accumulato un tale amore per questi luoghi che per liberarmene in qualche modo ho dovuto scrivere, questo proprio è una specie di outing necessario al mio equilibrio mentale, in questo libro che si chiama La cotogna di Istanbul, che è una ballata in versi, una cosa un po' delirante per l'epoca in cui viviamo, una ballata in versi per tre uomini e una donna. Quando c'è l'incontro tra il protagonista, che è un ingegnere austriaco, e la donna, cioè Masha, una sarajevese di bellezza leggendaria, una vedova vestita di nero, c'è questo incontro che è fortemente intriso delle luci e dei sapori e degli odori del luogo. Buonasera, gli disse, sono, con una voce roca da contralto, e quel nome fu come talismano, fu cabala, ansimare di dervisci, un lento sciabordio sul bagnasciuga. Nell'andito un odore di patate, legna di faggio, crauti a macerare, e dalle scale scendeva il profumo di tavola da pranzo già imbandita, timballo con la carne, mele al forno, col kaimak e l'asprigno del kefir. Mentre lo ascolto leggere un pezzo del suo libro, penso che per quanto possa sembrare assurda una ballata in versi per l'epoca in cui viviamo, sia davvero perfetta per rendere l'idea di quei luoghi, così lirici ed epici al tempo stesso. Ecco, io ricordo, il primo ricordo molto forte che ho avuto di Sarajevo è stato proprio la prima sera quando passeggiavo con la persona che doveva farmi da interprete e cominciarono i cecchini a tirare e colpirono un albero che era incrostato di ghiaccio, e quindi il ghiaccio cadde tintinnando tra i nostri piedi, dicendoci che era ora di togliersi di lì. E così questa persona mi accompagnò a casa dei genitori e io mangiai questo kefir, che non avevo mai mangiato prima, e che è un latte fermentato in un certo modo. Quindi il ricordo dell'inizio del grande male nella pancia dell'Europa è collegato a questo bellissimo incontro e a questo gusto asprigno che cerco sempre di perpetuare comprandolo. Io abito a Trieste, dalla vicina Slovenia. The time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? Forgetting all of your day. Is there a time for cold and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time? Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nei Balcani con Paolo Rumiz. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo nei Balcani con Paolo Rumiz sulle parole della sua ballata in versi, La cotogna di Istanbul. Tristezza della guerra e dignità della vita si mescolano ai profumi e ai sapori di questi luoghi, come Sarajevo, che nei ricordi del mio accompagnatore è associata al gusto asprigno del kefir che ha mangiato la prima sera in cui vi è arrivato. Ma le immagini da evocare sono ancora tante. Questo libro che ho scritto è pieno di immagini, di luoghi, di montagne, di vento, di birra, di vino, di racchia, maledetta racchia, che è l'acquavite di lì, e soprattutto la Slivovica, che è il quando è buona è la fine del mondo, e questo distillato di prugne o talvolta di albicocche, in certi casi anche di pere, che può addolcirti le serate o trasformare la tua baraonda in una ciucca indimenticabile, talvolta letale, come mi è accaduto qualche volta. Dicevano, tornando alla Bosnia, che Sarajevo era l'unico posto al mondo dove potevi uscire di casa al mattino senza un soldo in tasca e tornare la sera a casa ubriaco, perché trovavi sempre qualcuno che ti offriva qualcosa. La città era estremamente disponibile. Condivisione, disponibilità, accoglienza dell'altro. Questo mi viene da pensare ascoltando Rumiz, e nel racconto che segue non posso che aggiungere tolleranza alle qualità degli abitanti dei Balcani. Ecco, dal punto di vista dei gusti c'è una cosa che mi piace ricordare. Nelle case dei cristiani c'era molto spesso un pentolone di coccio che veniva conservato per i musulmani e gli ebrei, e non aveva mai toccato la carne di maiale. Questo è commovente, perché significa che la presenza di un ebreo o di un musulmano nella casa dei cristiani era così frequente che non poteva non essere risolta con questi piccoli atti di dedizione, di omaggio, di rispetto nei confronti della cultura dell'altro. E questo ti fa pensare molto, cioè Sarajevo non è stata bombardata e aggredita perché stava diventando islamica, ma al contrario, perché era troppo tollerante e troppo complessa nel suo interno per essere accettata da un mondo sparato verso il pensiero unico della modernità monolitica, che non riesce a concepire nient'altro. Vedi quello che succede in Italia, la pulizia etnica. Ma in quale altro posto al mondo, in casa di un cristiano, c'è una pentola che non abbia mai toccato la carne di maiale solo per rispetto delle altre religioni? La ex Jugoslavia è vero amore per Paolo Rumiz. I suoi racconti, la sua voce, la sua passione nel ricordare quanta bellezza e vitalità si celino dietro alla piega obliqua e amara dei Balcani, come la descrive nel suo libro La cotogna di Istanbul, ormai mi hanno rapita. L'ex Jugoslavia, il mondo ex, che ha conservato come unica cosa in comune il prefisso 0038. Qualcuno tra l'altro mi ha detto: guarda che l'Italia è sulla stessa strada, non vorrei che presto tra di noi non restasse altro che il 0039. Chiusa questa parentesi, la Jugoslavia, questo mondo ex che io ho amato molto, è uno dei più bei luoghi d'Europa, di un verde sconvolgente, di un abbinamento di Alpe, Pannonia, Balcania profonda, quasi Grecia, e questa costa irsuta in cui ogni metro di dislivello registra un cambio di mentalità e di civiltà. È piena di luoghi segreti, ha un'enorme abbondanza di fonti, è intrisa della parte più drammatica della storia, perché lì è il luogo dove si sono confrontati il turco e il cristiano, dove il cristianesimo si è spaccato in due sulla linea del fiume Drina, luogo favoloso e terribile. Sulla linea del fiume Drina il cristianesimo ortodosso e il cristianesimo d'Occidente si sono divisi, ed è tuttora una divisione ancora più forte di quella che esiste tra l'Islam e il cristianesimo in generale. C'è un vecchio detto che dice: meglio il turco del papa, dicono i serbi. Voglie turzi nego papa. L'incontro col diverso e l'abitudine al confronto con l'altro, da sé, hanno reso questa popolazione unica. Unica come la geografia che l'ha modellata. Una geografia che Rumiz non manca di descrivere in maniera quasi commovente. Di luoghi, beh, se vogliamo ridurre la cosa alle città, io peraltro amo molto anche la natura, amo quelle montagne, cioè voi non avete un'idea che cos'è il selvaggio Durmitor, per esempio. Montagne che ti riportano alle Alpi degli anni 30 in Italia. Il canyon del fiume Tara, sempre in Montenegro, vale almeno quanto le gole del Verdon in Francia. Luoghi incredibili dove ancora puoi vivere un tranquillo weekend di paura. Sembra quasi di rivedere nei suoi occhi quei paesaggi. Quante volte ci sarà stato e quante altre volte ci tornerà? Tra i ricordi di tutti i suoi viaggi ce n'è anche uno che riguarda suo figlio. Mi racconta di quando anche lui è stato per la prima volta nei Balcani e di un SMS che gli ha spedito appena arrivato. Che incanto, papà! Adesso capisco cosa ti portava così spesso lontano da me. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nei Balcani con Paolo Rumiz. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono alla Feltrinelli di Via Aldegari di Milano e davanti a me c'è Paolo Rumiz. Stiamo parlando dei Balcani. Niente di più interessante se l'interlocutore è uno come lui che ha un amore quasi viscerale per quei luoghi. Mi ha portata a Sarajevo con i suoi incanti, ma ce ne sono altre di città che vale la pena visitare. Così partiamo alla volta della Serbia per una nuova meta. Sulle città, beh, ce n'è una in particolare che io amo molto, da parte Lubiana, che è questa piccola Praga. A parte una certa magnificenza asburgica, un po' viennese, pannonica già, che è Zagabria, ma Novi Sad. Nome Novi Sad, stato Serbia, superficie 129 km quadrati, abitanti 371.400, clima. Novi Sad ha un moderato clima continentale con quattro stagioni. L'autunno è più lungo della primavera, con lunghi periodi caldi e soleggiati. L'inverno è mite, gennaio è il mese più freddo, la primavera è corta e piovosa e l'estate arriva repentinamente. Religione. Sin dai tempi in cui Novi Sad fu dichiarata città libera, le diverse confessioni religiose presenti hanno cercato di convivere in maniera pacifica e le autorità si sono sforzate di eliminare ogni controversia. Nel 1747, cattolici e ortodossi, che sono le chiese maggioritarie, si accordarono per un'eguale partecipazione alla vita pubblica della città. In particolare, mi piace perché è un crogiolo di popoli. Fai conto che le targhe delle strade sono scritte in cinque lingue diverse. È un luogo di una bellezza bastarda straordinaria e lì hai proprio la dimostrazione che le etnie cosiddette pulite, purificate, sono perdenti nei confronti di quelle invece che si sono mescolate. La bellezza delle donne di Novi Sad è sconvolgente, cioè in questo luogo dove si mescolano i popoli, le acque, dove gli eserciti si sono scontrati lasciando delle memorie spesso tremende, abbiamo un risultato che ci conforta sul nostro futuro, che è quello di un meticciato, no? Però ecco lì, se il meticciato è quello, tanto di cappello. Cioè io ricordo che arrivai lì, ormai sono 10 anni, assieme a Francesco Altani, il vignettista di Repubblica, e l'amico Emilio Rigatti, per un viaggio in bicicletta che facemmo da Trieste fino a Istanbul, per l'appunto. E ci siamo seduti a un bar a guardare il passaggio di queste meraviglie e abbiamo detto, abbiamo fatto la scommessa: il primo che ne trova una che non è bella, gli paghiamo da bere. E non siamo riusciti in un'oretta di goliardata a trovarne una. Pensare a Paolo Rumiz che guarda le donne di Novi Sad e per scommessa ne cerca una non bella per farsi offrire da bere dagli amici è un'immagine molto divertente. Ma non solo, è un'immagine che rende anche molto bene l'idea della bellezza che porta con sé la mescolanza e della ricchezza che si cela dietro al meticciato. A Novi Sad è un luogo, come tutti i luoghi, molto meticci, dove le civiltà si sono succedute a ritmo veloce, è anche un luogo di grandi contaminazioni e quindi anche un luogo molto musicale. A Novi Sad tu senti l'ibridarsi dei violini della Pannonia, degli zingari, della lamentazione del flauto di canna rumeno. Senti gli ultimi echi della Grecia, senti fortemente il risuonare della tristezza turca che si annida ancora nelle nere montagne della Bosnia, senti lontano le tamburizze dell'Adriatico, i canti marinari e poi senti la presenza non da poco anche del nord, dell'Austria, perché quella è stata una grande fortezza turca, no, è stata una grande fortezza asburgica. E lì avviene ogni anno in luglio un grande festival del jazz, per il quale affluiscono ragazzi dall'Inghilterra, dalla Russia, da mille posti che l'Italia conosce poco, ma il quale vale veramente la pena di andare, perché la città non dorme per una settimana e tu ti trovi immerso in questa meraviglia di volti e di suoni che ti poi ti impedisce di dormire. La musica, il ritmo dei suoni, ma anche delle lingue, che sono molte e che fanno inevitabilmente bene all'elasticità della mente e dei caratteri, sempre in ottica di fusione ed accoglienza dell'altro. Paolo mi dice anche una cosa che non conoscevo sulle doti dei giovani di Novi Sad, relativamente alle nuove tecnologie. Novi Sad è una città che è stata costruita nella fine del 600, inizio 700, non esisteva prima, per dare alla vicina fortezza di Petrovaradin, costruita per tenere a bada il turco dopo la sconfitta, dopo il fallito assedio di Vienna del 1683, ai piedi di questa enorme fortezza che domina da più di 100 metri la piana infinita della Pannonia fino verso le porte di ferro, tu hai questo luogo che è stato fatto apposta per servire la fortezza. Per questo si chiama Novi Sad, che vuol dire la città nuova. E lì, ripeto, hai una densità di voci, di ce ne dimenticavo, ci sono gli ebrei, cioè il Nobel per la letteratura Danilo Kish, e di là. Cioè, leggere i libri di Kish, tu capisci che cosa significa, che cos'erano le donne ebree di quei luoghi che parlavano. Addirittura ci mettevano dentro l'antico ispanico dei sefarditi, quindi immagina quale ginnastica mentale a quale ginnastica mentale è sottoposto uno che vive in un posto in cui si parlano normalmente 5-6 lingue. Difatti i ragazzi di Novi Sad sono i più apprezzati d'Europa nell'uso dell'informatica. Perché evidentemente questo avere la testa a compartimenti, per cui hai come un semaforo che ti fa passare da una lingua all'altra continuamente, e che era una ginnastica mentale tale che tu, di fronte alla foresta vergine del web, ti orienti molto meglio degli altri. Quindi sono molto più vaccinati alla complessità di quanto siano i figli dei luoghi dalle etnie cosiddette pulite. Drop the charges! Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nei Balcani con Paolo Ruiz. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dopo la Bosnia-Erzegovina con Sarajevo, la Serbia con la visita a Novi Sad, adesso Paolo Rumiz mi porta in Macedonia e, per l'esattezza, in un villaggio che, nei racconti dei suoi abitanti al mio compagno di viaggio, pare sia stato risparmiato dalle armi, addirittura grazie alla musica. Un luogo che io ho amato enormemente è la Macedonia, perché è il paese in bilico, non a caso si chiama così. Tutti la vorrebbero i greci, la vorrebbero i serbi, la vorrebbero gli albanesi, la vorrebbero i bulgari, ma la Macedonia si ostina a restare Macedonia. E guarda caso, esattamente come a Novi Sad, anche quello è un luogo musicale. Quando in un luogo come... c'è un villaggio di nome Strumica. Nome Strumica. Stato Macedonia. Superficie 321 km quadrati. Abitanti 79.000, di cui 75.258 macedoni e 3.754 turchi. Clima misto tra il continentale e il mediterraneo, in particolare le valli del fiume Vardar e Strumica hanno un tipo di clima mediterraneo con estati calde e secche e inverni miti e piovosi. Eventi. Strumica è anche famosa per la sua vita notturna e per gli eventi internazionali. Quando in un luogo come quello scende la sera, tu vedi i contadini che tornano dal campo con la zappa, mollano la zappa e prendono il clarino o la tromba o il tamburo. E tutto il paese si riempie di suoni. E uno di loro mi ha detto: guarda Paolo, questo è il nostro antidoto al disordine. Perché qui non è mai arrivato il Kalashnikov? Perché noi avevamo il sassofono. Perché noi da generazioni suoniamo e noi siamo stati allenati alla musica già prima di nascere, perché la sentivamo dalla pancia delle nostre madri. Che potere può avere la musica? Qui è davvero tutto. E a proposito di musica e guerra, mi viene in mente una scena del film di Kusturica, Underground, dove sotto i bombardamenti i due protagonisti ballano un tango per non avere paura. Marco, chi ci bombarda adesso? Gli alleati. Quando non ci bombardano i tedeschi, ci bombardano gli alleati. Dove vai? Ma nel sotterraneo. Resta con me. Eh? Resta con me. Hai paura? Beh, non quando sono con te. Io ho visto un gruppo musicale che si chiama gli Agusheri. Sono zingari di origine turca che mi hanno improvvisato lì sul momento un'orchestrina di 45 elementi in cui erano presenti 4 generazioni. Il più piccolo aveva 8 anni, il più vecchio ne aveva 85. E hanno dato vita alla più scatenata baraonda alla quale io mi sia mai trovato di fronte in tutta la mia vita. Strumica è un luogo dagli inverni freddissimi e dalle estati di un caldo egizio, un luogo dove nelle stagioni di mezzo vedi arrivare le rondini. Nella terrazza del mio albergo c'erano qualcosa come una quarantina di nidi, quindi al primo sole sono stato svegliato da un casino infernale di questi cuccioli che avevano fame. E vedere questa musicalità che era, la sentivi anche nell'aria, non soltanto negli strumenti degli uomini, ma lo sentivi anche in questa, negli uccelli, nell'acqua. Cioè, loro erano intrisi di musica e lì ti viene proprio la nostalgia. Ma anche l'Italia era così. Perché non siamo più così? Chi ci ha messo il silenziatore? Chi? Eravamo così, venivano a vederci da tutto il mondo perché cantavamo lavorando. Oggi siamo un popolo muto. Sono ricordi che portano indietro nel tempo quelli di Paolo Rumiz, ad un passato italiano che si ritrova nel presente balcanico. Ecco, io questi ricordi proprio di un, come se andando a Oriente io trovassi ciò che noi eravamo. È come andare non solo al di là, in là nello spazio, ma anche all'indietro nel tempo. Vedevo le facce dei miei nonni, del bambino che io ero stato o dei bambini che gli italiani erano un tempo. Queste facce da mezzi manigoldi di strada, intelligentissimi e capaci di raggirarti con nulla, no? Non c'è più sta cosa, siamo un popolo in plume, perduto. Io sono molto preoccupato per questo paese, perché non è la politica che mi preoccupa, ma è proprio questa caduta culturale a livello popolare. Scusatemi se vi faccio questa lunga parentesi, però il risorgimento è stato fatto in musica, prima che con i cannoni. Noi abbiamo cantato quelle canzoni e soprattutto quella che noi oggi chiamiamo Padania cantava, perché la nebbia della cassa armonica del Po rimanda i suoni, è fatta per questo. E oggi, se noi perderemo l'unità nazionale, sarà anche perché non cantiamo più. Il viaggio è finito e dopo aver ascoltato Rumiz mi viene voglia di uscire per strada e cominciare a cantare. Prima di salutarci mi consegno un CD con della musica balcanica inedita realizzata apposta per accompagnare la versione in audiolibro che uscirà a breve della Cotogna di Istanbul. È sulle note di una di queste canzoni che ci congediamo, anche se prima di lasciarmi gli chiedo se mi legge ancora un passo della ballata per aiutarmi a conservare il ricordo dei Balcani. E qui si racconta del protagonista Max Altenberg, questo ingegnere viennese che muore dalla nostalgia di questa donna che ha conosciuto molti anni prima e che non ha più rivisto. E una sera in un motel nel sud dell'Austria, in mezzo ai camionisti che arrivano da sud-est, risente il profumo di quei luoghi. Nel caravanserraglio pieno zeppo si fece strada tra bulgari e ucraini. Distinse l'occhio amaro degli slavi in mezzo agli avventori della notte. Senza aver fame ordinò una scodella di goulash, zuppe e salsiccia con senape. Beve una piccola Dunkel von Fass. Uscì col cuore inquieto, poi si accese una sigaretta e vide che il vento liberava la luna dalle nubi e che il suo viaggio nella notte nera aveva già preso un ritmo più turco. E lì, nel freddo crudo di pianura, al nostro eroe fu persino possibile sentir tra un'auto e l'altra il passo lieve delle gemelle verdi, Drava e Sava, fumanti di vapore nella brina, dei boschi senza fine di Slavonia. Erano lì che stavano scavandosi sentieri paralleli di stagnola, mezze ubriache, in cerca del Danubio. Paolo Rumiz è in libreria con la versione audiolibro di La Cotogna di Istanbul, letta dall'autore e da Monio Vadia, accompagnata da un CD di musica balcanica inedita. Hanno cantato Ornella Serafini, Monio Vadia, Vinicio Capossela. Hanno suonato Cristina Verità, Daniele Furlan, Alfredo Lacoseias, Flavio D'Avanzo, Alessandro Ipavec, Francesca Altran, Federico Magris, Federica Lotti, Mario Brunello. Dicono che quell'11 novembre a Vienna il cielo si abbassò talmente da sembrare la chiglia di una nave.